Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. In una giornata di corse sulla tribuna, Andrea Sperelli voleva ottenere da donna Ippolita Albonico che la andasse la dimane al Palazzo Zuccari per prendere il misterioso avorio dedicato a lei. Ella si schermiva ondeggiando fra la prudenza e la curiosità. Ad ogni frase del giovane un po' ardita, corrugava le sopracciglia, mentre un sorriso involontario le sforzava la bocca e la sua testa sotto il cappello ornato di piume bianche, sul fondo dell'ombrellino ornato di merletti bianchi, era in un momento di singolare armonia. Tibi Ippolita. Dunque venite? Io vi aspetterò tutto il giorno, dalle 2 fino a sera. Va bene? Ma siete pazzo! Di che temete? Io giuro alla maestà vostra di non toglierle neppure un guanto. Rimarrà seduta come in un trono, secondo il suo regal costume, e anche prendendo una tazza di tè potrà non posare lo scettro invisibile che porta sempre nella destra imperioso. È concessa la grazia a questi patti? No. Ma ella sorrideva, perché compiacevasi di sentir rilevare quell'aspetto di regalità che era la sua gloria. E Andrea Sperelli continuava a tentarla, sempre in tono di scherzo o di preghiera, unendo alla seduzione della sua voce uno sguardo continuo, sottile, penetrante, quello sguardo indefinibile che sembrava svestire le donne, vederle ignude attraverso le vesti, toccarle sulla pelle viva. «Non voglio che mi guardiate così», disse donna Ippolita quasi offesa, con un lieve rossore. Sulla tribuna erano rimaste poche persone. Signore e signori passeggiavano sull'erba lungo lo steccato, o circondavano il cavallo vittorioso, o scommettevano coi pubblici scommettitori urlanti, sotto l'incostanza del sole che appariva e spariva tra i molli arcipelaghi delle nuvole. «Scendiamo», ella soggiunse non accorgendosi degli occhi seguaci di Giannetto Rutolo che stava appoggiato alla ringhiera della scala. Quando per discendere passarono dinanzi a colui, lo Sperelli disse «Addio, Marchese, a poi! Correremo!» Il Rutolo s'inchinò profondamente a donna Ippolita e una subita fiamma gli colorò la faccia. Eragli parso di sentire nel saluto del conte una leggera irrisione. Rimase alla ringhiera, seguendo sempre con gli occhi la coppia nel recinto. Visibilmente soffriva. Giannetto Rutolo, fingendo di voler osservare i cavalli che entravano nella pista, volse il binocolo sui due. Visibilmente gli tremavano le mani. Ogni sorriso, ogni gesto, ogni attitudine di Ippolita gli dava un atroce dolore. Quando abbassò il binocolo, egli era assai smorto. Aveva sorpreso negli occhi dell'amata che si posavano sullo Sperelli quello sguardo che egli ben conosceva, poiché ne era stato un tempo illuminato di speranza. Gli parve che tutto ruinasse intorno a lui. Un lungo amore finiva, troncato da quello sguardo irreparabilmente. La tribuna si ripopolava rapidamente, giacché il segnale della terza corsa era prossimo. Le dame salivano in piedi sui sedili. Un mormorio correva lungo i gradi, simile a un vento sopra un giardino in pendio. La campanella squillò. I cavalli partirono come un gruppo di saette. «Correrò in onor vostro, donna Ippolita», disse Andrea Sperelli all'Albonico, prendendo congedo per andare a prepararsi alla seguente corsa, che era di gentiluomini. «Tibi Ippolita, semper!» Ella gli strinse la mano forte, per augurio, non pensando che anche Giannetto Rutolo stava fra i contenditori. Quando vide, poco oltre l'amante pallido scendere giù per la scala, l'ingenua crudeltà dell'indifferenza le regnava nei belli occhi oscuri. Il vecchio amore le cadeva dall'anima, pari a una spoglia inerte, per l'invasione del nuovo. Ella non apparteneva più a quell'uomo, non gli era legata da nessun legame. Il duca di Beffi e Paolo Caligaro stavano sulla soglia, già in assetto di corsa. Il piccolo Caligaro imprecava alla pioggia della notte che aveva reso pesante il terreno. «Ora», disse allo Sperelli, «tu hai molte probabilità con Mici in Malliccio». Giannetto Rutolo udì quel presagio ed ebbe al cuore una fitta. egli riponeva nella vittoria una vaga speranza. Nella sua immaginazione vedeva gli effetti di una corsa vinta e di un duello fortunato contro il nemico. Spogliandosi, ogni suo gesto tradiva la preoccupazione. «Ecco un uomo che prima di montare a cavallo vede aperta la sepoltura», disse il duca di Beffi posandogli una mano sulla spalla con un atto comico. «Ecce homo novus». Andrea Sperelli, il quale in tal momento aveva gli spiriti gai, ruppe in un di quei suoi franchi scoppi di risa che erano la più seducente effusione della sua giovinezza. «Perché ridete voi?» gli chiese il rutolo pallidissimo, fuori di sé, fissandolo di sotto ai sopraccigli corrugati. «Mi pare», rispose lo Sperelli senza turbarsi, «che voi mi parliate in un tono assai vivo, caro Marchese». «Ebbene?» «Pensate del mio riso quel che più vi piace». «Penso che è sciocco». Lo Sperelli balzò in piedi, fece un passo e levò contro Giannetto Rutolo il frustino. Paolo Caligaro giunse a trattenergli il braccio per prodigio. Altre parole irruppero. Sopravvenne don Marcantonio Spada, udì l'alterco e disse: «Basta, figliuoli, sapete ambedue quel che dovrete fare domani. Ora dovete correre». Intorno ai pubblici scommettitori ferveva la folla. Micin Malleccio, il cavallo del conte Ugenta, e Brummel, il cavallo del marchese Rutolo, erano i favoriti. Venivano poi Seturist, del duca di Beffi, e Carboniglia, del conte Caligaro. Andrea Sperelli era calmo, quasi allegro. Il sentimento della sua superiorità sull'avversario l'assicurava. Egli andò incontro al suo cavallo con il cuor palpitante, come incontro a un amico che gli portasse l'annunzio aspettato di una fortuna. Gli palpò il muso con dolcezza, e l'occhio dell'animale, quell'occhio ove brillava tutta la nobiltà della razza per una inestinguibile fiamma, l'inebriò come lo sguardo magnetico di una donna. La campanella diede il segnale, ma Brummel aveva già preso lo slancio, e la partenza, quindi, non essendo stata contemporanea, fu ritenuta non buona. Anche la seconda fu una falsa partenza per colpa di Brummel. Lo Sperelli e il duca di Beffi si sorrisero fuggevolmente. La terza partenza fu valida. Brummel subito si staccò dal gruppo radendo lo steccato. Gli altri tre cavalli seguirono di pari, per un tratto, e saltarono la prima siepe felicemente, poi la seconda. Ciascuno dei tre cavalieri faceva un gioco diverso. Il duca di Beffi cercava di mantenersi nel gruppo perché dinanzi agli ostacoli Seturist fosse instigato dall'esempio. Il Caligaro moderava la fuga di Carboniglia a conservarle le forze per gli ultimi 500 metri. Andrea Sperelli aumentava gradatamente la velocità, volendo incalzare il suo nemico in prossimità dell'ostacolo più difficile. Il Rutolo sentì dietro di sé il galoppo incalzante e fu preso da tale ansietà che non vide più nulla. Tutto alla vista gli si confuse, come se gli fosse per perdere gli spiriti. Faceva uno sforzo immenso per tener piantati gli speroni nel ventre del cavallo e lo sbigottiva il pensiero che le forze lo abbandonassero. Aveva negli orecchi un rombo continuo. E in mezzo al rombo udiva il grido breve e secco d'Andrea Sperelli. Hop, hop! Sensibilissimo alla voce più che ad ogni altra istigazione, Malleccio divorava l'intervallo di distanza. Non era più che a 3 o 4 metri da Brummel. Stava per raggiungerlo, per superarlo. Hop! Un'altra barriera attraversava la pista. Il Rutolo non la vide perché aveva smarrita ogni coscienza, conservando solo un furioso istinto di aderire all'animale e di spingerlo innanzi all'avventura. Brummel saltò, ma non coadiuvato dal cavaliere urtò le zampe posteriori e ricadde dall'altra parte così male che il cavaliere perse le staffe pur restando in sella. Seguitò tuttavia a correre. Andrea Sperelli teneva ora il primo posto. Giannetto Rutolo, senza aver recuperate le staffe, veniva secondo, incalzato da Paolo Caligaro. Il duca di Beffi, avendo sofferto da Seturist un rifiuto, veniva ultimo. Passarono sotto le tribune in quest'ordine, udirono un clamore confuso che si dileguò. Sulle tribune tutti gli animi stavano sospesi nell'attenzione. Ad ogni mutamento nell'ordine dei cavalli molte esclamazioni si levavano tra un lungo mormorio e le dame ne avevano un fremito. «Sperelli è caduto!» annunziò a voce alta la contessa di Lucoli. Brummel, sebbene offeso alle zampe posteriori, faceva prodigi per virtù del suo sangue puro. Carboniglia infine spiegava tutta la sua velocità, condotta con arte mirabile dal suo cavaliere. Mancavano circa 800 metri alla meta. Lo Sperelli vide la vittoria fuggirgli, ma raccolse tutti gli spiriti per riafferrarla. Teso sulle staffe, curvo sulla criniera, gittava di tratto in tratto quel grido breve, esile, penetrante, che aveva tanto potere sul nobile animale. Mentre Brum e le carboniglie affaticate dal terreno pesante perdevano vigore, Malleccio aumentava la veemenza del suo slancio. Stava per riconquistare il suo posto, già sfiorava la vittoria con la fiamma delle sue narici. Dopo l'ultimo ostacolo, avendo superato Brummel, raggiungeva con la testa la spalla di Carboniglia. A circa 100 metri dalla meta, radeva lo steccato, avanti, avanti, lasciando fra sé e la morella del Caligaro lo spazio di 10 lunghezze. La campana squillò. Un applauso risonò per tutte le tribune, come il crepitar sordo di una grandine. Un clamore si propagò nella folla, sulla prateria inondata dal sole. Andrea Sperelli, rientrando nel recinto, pensava: «La fortuna è con me oggi, sarà con me anche domani». Sentendo venire in sé l'aura del trionfo, ebbe contro l'oscuro pericolo quasi una sollevazione d'ira. Avrebbe voluto affrontarlo subito, in quello stesso giorno, in quella stessa ora, senza altro indugio, per godere una duplice vittoria e per mordere quindi al frutto che gli offriva la mano di donna Ippolita. Poi, avendo lasciato l'abito di corsa, cercò di Ludovico Barbarisi e del barone di Santa Margherita. Ambedue accettarono l'incarico di assisterlo nella questione col marchese Rutolo. Egli li pregò di sollecitare: «Stabilite dentro questa sera ogni cosa. Domani, all'una dopo mezzogiorno, io debbo essere già libero. Ma domattina lasciatemi dormire almeno fino alle 9. Io pranzo dalla Fiorentino e passerò poi in casa Giustiniani e poi a tarda ora al circolo. Sapete dove trovarmi. Grazie e arrivederci, amici». Per millanteria, uscendo di casa Giustiniani, Andrea andò al circolo delle cacce e si mise a giocare con gli sportsmen napoletani. Verso le 2 il Santa Margherita lo sorprese, lo forzò ad abbandonare il tavolo e volle ricondurlo a piedi fino al Palazzo Zuccari. Erano nella piazza di Spagna. La barcaccia metteva un chioccolio roco ed umile, luccicando alla luna che vi si specchiava dall'alto della colonna cattolica. 4 o 5 vetture pubbliche stavano ferme in fila, coi fanali accesi. Dalla via del Babuino giungeva un tintinnio di sonagli e un rumor sordo di passi, come d'un gregge in cammino. A piede la scala il barone s'accomiatò. «Addio, a domani! Verrò qualche minuto prima delle 9 con Ludovico. Tirerai 2 colpi per scioglierti. Penseremo noi ad avvisare il medico. Va! Dormi profondo». Andrea si mise su per la scala. Al primo ripiano si soffermò, attirato dal tintinnio dei sonagli che si avvicinava. Veramente egli si sentiva un po' stanco e anche un po' triste in fondo al cuore. Una specie di inquietudine l'invadeva, non bene distinta, mista di dubbio e di scontento. I nervi, troppo tesi in quella giornata violenta e torbida, gli si rilassavano ora, sotto la clemenza della notte primaverile. Perché, senza passione, per puro capriccio, per sola vanità, per sola prepotenza, erasi egli compiaciuto di sollevare un odio e di rendere dolorosa l'anima di un uomo? Il pensiero della terribile pena che certo doveva affliggere il suo nemico in una notte così dolce gli mosse quasi un senso di pietà. L'immagine di Elena gli traversò il cuore in un baleno. Gli tornarono nella mente le angosce durate un anno innanzi, quando egli l'aveva perduta, e le gelosie e le collere e gli sconforti inesprimibili. Anche allora le notti erano chiare, tranquille, solcate di profumi, e come gli pesavano. Aspirò l'aria per ove salivano i fiati delle rose fiorite nei piccoli giardini laterali e guardò giù nella piazza passare il gregge. La folta lana biancastra delle pecore agglomerate procedeva con un fluttuamento continuo, accavallandosi a similitudine di un'acqua fangosa che inondasse il lastrico. Qualche belato tremulo mescevasi al tintinnio. Altri belati, più sottili, più timidi, rispondevano. I butteri gittavano di tratto in tratto un grido e distendevano le aste, cavalcando dietro e a fianchi. La luna dava a quel passaggio d'Armenti, per mezzo alla gran città addormentata, non so che mistero, quasi di cosa veduta in sogno. Riprese a salire, lentamente. Sentì più grave nel salire la sua stanchezza. I ginocchi gli si piegavano. Gli lampeggiò d'improvviso il pensiero della morte. Se io rimanessi ucciso, se io ricevessi una cattiva ferita e ne avessi per tutta la vita un impedimento, La sua avidità di vivere e di godere si sollevò contro quel pensiero lugubre. Egli disse a sé medesimo: «Bisogna vincere!» E vide tutti i vantaggi che gli avrebbe avuti da quest'altra vittoria. Il prestigio della sua fortuna, la fama della sua prodezza, i baci di donna Ippolita, nuovi amori, nuovi godimenti, nuovi capricci. Allora, dominando ogni agitazione, si mise a curare l'igiene della sua forza. Dormì fino a che non fu risvegliato dalla venuta dei due amici. Roma splendeva nel mattino di maggio, abbracciata dal sole. Dopo un tratto di salita apparve la città immensa, augusta, radiosa, irta di campanili, di colonne e d'obelischi, incoronata di cupole e di rotonde, nettamente intagliata come un'acropoli nel pieno azzurro. Erano nella villa Sciarra, già per metà disonorata dai fabbricatori di case nuove, e passavano in un viale di lauri alti e snelli fra due spalliere di rose. Il Santa Margherita, sporgendosi fuori dello sportello, vide un'altra carrozza ferma sul piazzale dinanzi alla villa e disse: «Ci aspettano già». Guardò l'orologio. Mancavano 10 minuti all'ora precisa. Fece fermare il legno e insieme col testimone e col chirurgo si diresse verso gli avversari. Andrea rimase nel viale ad attendere. Mentalmente si mise a svolgere alcune azioni di offesa e di difesa che gli intendeva eseguire con probabilità di esito, ma lo distraevano i vaghi miracoli della luce e dell'ombra per l'intrico dei lauri. I suoi occhi erravano dietro le apparenze dei rami commossi dal vento mattutino, mentre il suo animo meditava la ferita e gli alberi gentili, come nelle amorose allegorie di Francesco Petrarca, gli facevano sospiri in sul capo, ove regnava il pensiero del buon colpo. Sopraggiunse a chiamarlo il Barbarisi, dicendo: «Siamo pronti, il custode ha aperto la villa, abbiamo a disposizione le stanze terrene, una gran comodità, vieni a spogliarti». Quando lo Sperelli fu in assetto, uscì col suo testimone e con i medici sul piazzale. Ancora una volta lo spettacolo di Roma tra le palme attrasse i suoi sguardi e gli diede un gran palpito. L'impazienza l'invase. Egli avrebbe voluto già trovarsi in guardia e udire il comando dell'attacco. Gli pareva d'aver nel pugno il colpo decisivo, la vittoria. «Pronto?» gli chiese il Santa Margherita andandogli incontro. «Pronto». Il terreno scelto era a fianco della villa, nell'ombra, sparso di fina ghiaia e battuto. Giannetto Rutolo stava già all'altra estremità, con Roberto Casteldieri e con Carlo De Susa. Ciascuno aveva assunto un'aria grave, quasi solenne. I due avversari furono posti l'uno di fronte all'altro e si guardarono. Il Santa Margherita, che aveva il comando del combattimento, notò la camicia di Giannetto Rutolo fortemente inammidata, troppo salda, con il colletto troppo alto, e fece osservare la cosa al Casteldieri, che era il secondo. Questi parlò al suo primo, e lo Sperelli vide il nemico accendersi d'improvviso nel volto e con un gesto risoluto far l'atto di scamiciarsi. Egli, con tranquillità fredda, seguì l'esempio. Si rimboccò i pantaloni, prese dalle mani del Santa Margherita il guanto, la stringa e la spada. Si armò con molta cura e quindi agitò l'arma per accertarsi di averla bene impugnata. In quel modo il bicipite emerse visibilissimo, rivelando il lungo esercizio del braccio e l'acquisito vigore. Quando i due stesero le spade per prendere la misura, quella di Giannetto Rutolo oscillava in un pugno convulso. Dopo l'ammonimento d'uso intorno alla lealtà, il barone di Santa Margherita comandò con una voce squillante e virile: «Signori in guardia!» I due scesero in guardia nel tempo medesimo, il Rutolo battendo il piede, lo Sperelli inarcandosi con leggerezza. Il Rutolo era di statura mediocre, assai smilzo, tutto nervi, con una faccia olivastra, a cui davano fierezza le punte dei baffi rilevate e la piccola barba acuta in sul mento alla maniera di Carlo I nei ritratti di Van Dyck. Lo Sperelli era più alto, più slanciato, più composto, bellissimo nell'attitudine, fermo e tranquillo, in un equilibrio di grazia e di forza, con in tutta la persona una sprezzatura di grande signore. L'uno guardava l'altro entro gli occhi e ciascuno provava internamente un indefinibile brivido alla vista dell'altrui carne nuda contro cui appuntavasi la lama sottile. Nel silenzio udivasi il mormorio fresco della fontana, misto al fruscio del vento su per i rosai rampicanti, ove le innumerevoli rose bianche e gialle tremolavano. «A loro!» comandò il barone. D'intorno il silenzio pareva più profondo. Tutti gli astanti avevano coscienza della volontà micidiale che animava quei due uomini, e l'ansietà li teneva, e li stringeva il pensiero di dover forse ricondurre a casa un morto o un morente. Il sole, velato dalle pecorelle, spandeva una luce quasi lattea, e le piante, or sì or no, stormivano. Il merlo fischiava, ancora, invisibile. «A loro!» Il rutolo si precipitò sotto misura, con due giri di spada e con una botta in seconda. Lo Sperelli parò e rispose, facendo un passo indietro. Il rutolo incalzava, furioso, con stoccate velocissime, quasi tutte basse. Lo Sperelli, senza sconcentrarsi a quella furia, volendo evitare un incontro, parava forte e rispondeva con tale acredine che ogni sua botta avrebbe potuto passar fuor fora il nemico. La coscia del rutolo presso l'inguine sanguinava. «Alt!» tuonò il Santa Margherita quando se n'accorse. Ma in quell'attimo, appunto, lo Sperelli, facendo una parata di quarta bassa e non trovando il ferro avversario, ricevé in pieno torace un colpo e cadde tramortito sulle braccia del Barbarisi. Ferita toracica al quarto spazio intercostale destro, penetrante in cavità, con lesione superficiale del polmone. Annunziò nella stanza, quando ebbe osservato, il chirurgo. Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.